giocare un aquilone, un gesso bianco, il vecchio muro. Bastava un niente per sorridere, una bugia per essere grande. Un campo verde, una corsa e poi a pescar sul fiume. Bastava un niente per sorridere, una bugia per essere grande. Di quella età.